in primo piano. Lunedì 12 luglio, c'è da dire che le aperture sono ben diversificate in questo inizio settimana. Iniziamo dal Sole 24 Ore, l'edizione del lunedì, scossa ai debiti degli enti locali, questo è il titolo d'apertura, ci si concentra sulla stretta sugli enti locali ma anche sulle novità in vista, importanti, in un disegno, in un emendamento alla manovra che poi vedremo per quel che riguarda le aziende che hanno debiti con la pubblica amministrazione. Dopodiché le scelte delle aperture, c'è la Spagna che ha trionfato ai mondiali e un po' ovunque, c'è in prima pagina, su tutti i giornali, ma diciamo che si sceglie più la politica. Corriere della Sera, Casini, governo di larghe intese, questo è il titolo di apertura di prima pagina. Anche per il giornale, le grandi manovre estive della politica, trappola democristiana per Fini, questo è il titolo. Per Repubblica invece la vicenda, che vedremo anche all'interno sviluppata, caso Verdini, caos in Campania, si è dimesso un assessore del presunto complotto contro il governatore Caldoro. Veleni del PDL, arrivano le prime due dimissioni anche per La Stampa. Insomma, come dire, la politica in questo inizio settimana si concentra su una domanda. Dopo che c'è stata la cena a casa di Bruno Vespa giovedì scorso, presenti tra gli altri Berlusconi, Casini, il Cardinal Bertone, poi un po' il gota della finanza, la domanda è questa: riuscirà Berlusconi a far entrare Casini nel governo per... qualcuno dice addirittura sostituire i Finiani, il rischio di non avere i numeri per governare. La politica si arrovella su questa domanda, tanto che oggi è ben sviluppata in una serie di interviste, cominciando proprio da Pier Ferdinando Casini, a pagina 3 del Corriere della Sera, concede un'intervista a Roberto Zuccolini. Un governo per le riforme, continua a insistere su questo, ci vuole un governo di responsabilità nazionale, nessun veto su Berlusconi presidente, così dice Casini, che parla di quella cena, clima disteso, io ero da solo, Berlusconi che parlava come sempre del più e del meno, il segretario Vaticano Bertone messo ingiustamente di mezzo, di politica italiana non ha detto niente. Dice Casini di Bertone. Se basta una cena a far tremare il governo, a far parlare alcune forze politiche di complotto ai vertici dello Stato, come ha fatto l'Italia dei Valori, siamo messi davvero male, così esordisce Casini. La Lega però è letteralmente insorta, insorgono per un nulla, dice Casini. Ammesso e non concesso che ci siano state offerte all'UDC, cosa comunque che non era possibile in quella cena, appare chiaro a tutti gli italiani che il nostro partito non ha alcuna intenzione di entrare nella maggioranza. Consiglio quindi ad amici, destra e sinistra, di evitare colpi di sole. E poi resterete quindi distanti dai due poli? Forse non sono Pier Furbi, ma neanche Pier Fessi. Se insisto con la proposta di un partito della nazione che possa essere un approdo per tanti, ci sarà un motivo. Anche l'altra sera a casa di Vespa ho ripetuto ciò che dico ormai da settimane, cioè ci sarebbe bisogno di un armistizio. Se fossi il presidente del Consiglio farei un appello. Di fronte alla gravità della crisi economica, chiederei a tutte le forze politiche una responsabilità più ampia. Un governo dunque di larghe intese, guidato da Berlusconi? Chiede Roberto Zuccolini. La guida la sceglie il capo dello Stato, ma se Berlusconi assumesse questa iniziativa sarebbe intelligente perché ne avrebbe solo da guadagnare. Beh, ma così si perderebbero Lega e Italia dei Valori, che sarebbero fuori da questo discorso. Problemi loro, dice Casini, ma ci sarebbe un'assunzione chiara di responsabilità. Dunque Casini dice, non vogliamo entrare nel governo, ma faremmo parte di un governo di intese, di larghe intese, un governo per le riforme. Ecco qui Sandro Bondi a pagina 7 di Repubblica. L'alleanza con Casini è una scelta legittima. Umberto deve capire perché. Perché la Lega è letteralmente insorta su questa possibilità. Bossi continua a dire o noi o loro, cioè o la Lega o l'UDC. Sandro Bondi, ministro alla cultura ma anche molto vicino a Berlusconi, dice non posso non considerare che PDL e UDC fanno parte dello stesso titolo del Partito Popolare Europeo e perciò condividono gli stessi valori di fondo e gli stessi programmi. E il concetto è cercare di coinvolgere la Lega e di convincere la Lega. Di questa cosa dice Bondi, il leader della Lega possiede il buon senso e la sensibilità politica per guardare con rispetto a questo processo politico che non intacca minimamente l'attuale alleanza. Calderoli però, sempre su Repubblica, pagina 6, eccolo qui, avverte il premier Fini: fate pace tra Berlusconi e Fini, altrimenti a settembre ci contiamo. I finiani non sono poi così decisivi, Casini non può stare dove stiamo anche noi. Questo è l'out-out ancora ribadito oggi da Calderoli, mentre Rutelli che sta lì, il grande centro, Alleanza per l'Italia, pagina 5 della Stampa, dice: Casini si decida, io non capisco la sua strategia. In questa intervista Paolo Festuccia: penso che sarà la Lega a staccare la spina a questo governo, questo lo dice Rutelli, lo va a dire da tempo. E poi riguardo al grande dilemma, e cioè Casini al posto di Fini, di cene se ne fanno a centinaia, Berlusconi se vuole complottare con qualcuno ha mille occasioni per farlo, risponde Rutelli. Di Casini condivido molte scelte politiche, ho condiviso le sue critiche alla manovra al federalismo, ora c'è da chiedersi però qual è la sua strategia, perché se non si concretizza la strategia che io chiamo terzo polo, allora Casini rischia un bel predellino bis. Di questo si parla, ripeto, in questo lunedì 12 luglio. Se siete interessati alla politica, il tema è questo, sviluppato bene sui giornali, vedete da varie interviste. C'è anche Roberto Formigoni sul Giornale che dice: i leghisti sbagliano, ci vuole l'alleanza con l'UDC. Ci vuole o non ci vuole questa alleanza con l'UDC? Chissà, magari ne parleremo anche domani. Intanto Giuliano Ferrara sul Foglio torna col suo editoriale. C'era stata una pausa di una settimana, o me lo sono perso, ma credo proprio di no. Per il Cavaliere, meglio uno scambio in perdita che entrare in politica. Sentite Giuliano Ferrara che cosa ne pensa di questa possibilità, appunto, entrare Fini via e entra Casini fuori Fini. La metto così brutale, ma comunque il concetto sostanzialmente è questo. Berlusconi non è un bambino, sebbene di adulto abbia solo l'età. Comunque è intelligentissimo, un laser. Dunque sa bene che ho ragione quando dico che lo scambio ipotizzato da Vespa e benedetto dalla segreteria di Stato è una coglionatura. Che Casini è stato quello dei due ex alleati di coalizione che ha messo in discussione la sua premiership, cosa che Fini non ha mai fatto. Quello che gli ha reso la vita impossibile, che lo ha spinto alla furia e al predellino, fino all'espulsione dell'UDC dalle liste apparentate al PDL e dall'alleanza con lo schieramento elettorale vincente capitanato dal Cavaliere. Robe di 2 anni fa, non 20. Ma il mio sospetto, scrive Ferrara, è che con Fini Berlusconi non riesca a trovare un'intesa psicologica minima per una ragione chiara e non inconfessabile. Sì, Fini è antipatico, supponente, irrispettoso, complessato, d'accordo, ma la questione non è quella. La verità è che fuori dal suo partito Berlusconi tollera movimenti bizzarri, tradimenti, pazziature d'ogni conio, ma dentro il sacro recinto della sua azienda politica non c'è spazio nemmeno per azionisti di piccola minoranza. Mi spiace, Presidente, ma questo atteggiamento imprenditoriale ed egotistico in politica è un difetto. La piccola minoranza finiana può essere fastidiosa, ma un politico serio la usa. Se ne serve per fare più grande la sua forza e la sua immagine, passa di compromesso in prova di forza senza mai dimenticare che l'interesse comune è vincere la partita con opposizione e poteri neutri. Dunque, molto critico, Ferrara dice: è una coglionatura questa possibilità di far entrare Casini o fare questa sostituzione Casini-Fini, anche se la definisce sarebbe un colpo di classe, insomma un qualcosa davvero di politica, dal punto di vista politico anche geniale a suo modo. Ora vedremo come si svilupperà questa questione, se Berlusconi riuscirà a convincere soprattutto la Lega su questo. L'altro tema politico sviluppato dai giornali, ovviamente sullo sfondo sempre della manovra, sono le polemiche avvenute in campagna. Se vi siete persi qualcosa negli ultimi 3 giorni, c'è un'inchiesta nella quale si ipotizza l'esistenza di un'associazione segreta volta a condizionare il funzionamento degli organi istituzionali, di cui farebbe parte anche, è scritto nel registro degli indagati, il coordinatore nazionale del PDL Denis Verdini, in più l'imprenditore sardo Flavio Carboni. Accusati alcuni di avere arrestati, tra cui Flavio Carboni, un ex assessore Martino, un ex giudice Lombardi, accusati di aver violato la legge anti-P2, tanto che sono stati ribattezzati la nuova P3. Tra le altre cose, c'è la polemica su Verdini, molti dicono si dovrebbe dimettere, tanto che Italo Bocchino addirittura fa questa dichiarazione che ha creato scalpore. Per ora abbiamo visto solo una parte delle intercettazioni, ma quando emergeranno quelle vere è difficile che riesca a resistere. Tanto che tutti si chiedono come fa Bocchino a sapere che ci sono le intercettazioni nuove. Chissà, si parla tanto di legge sulle intercettazioni, ma vedete, già anche qua sono uscite le intercettazioni. Intanto sullo sfondo c'è questa polemica, lo sfogo di Caldoro, perché il governatore della Campania Caldoro era stato preso di mira da questa associazione, secondo il magistrato, un'associazione che viola una sorta proprio di nuova P2, una piccola P3, che voleva screditarlo come? Creando un falso dossier in cui si diceva che Caldoro andava a transessuali. Sarà il clima di veleni che invade ormai la politica da ogni angolo, sarà che la lotta si sta facendo sempre più lenta e senza esclusione di colpi, di certo la valanga di sterco che da monte cala a valle stavolta ha colpito il candidato alla presidenza della giunta regionale della Campania Caldoro. Le voci sulle sue personalissime passioni erotiche hanno rotto gli argini e dilagano in tutti gli ambienti. Cominciava così la velina inventata di sana pianta che alcune persone hanno fatto circolare per screditare Caldoro e dire un nuovo caso Marrazzo quando lui era candidato alla regione Campania, un nuovo caso Marrazzo se verrà eletto in Campania. Poi è stato eletto e sono venuti fuori alcuni nomi, per esempio l'assessore Sica, che si è ieri dimesso, è considerato uno di quelli che tramava contro di lui. Ieri c'è stato questo faccia a faccia tra Caldoro e Sica, assessore all'avvocatura, che ieri si è dimesso dicendo: guardate che io sono solo un piccolo granello nell'ingranaggio. E Caldoro, ora pagina 3 della Stampa, lo sfogo di Caldoro, chi è il burattinaio di tutto questo? Cioè chi mi voleva così male da dire che io andavo a trans inventandosi questa cosa per letteralmente sputtanarmi? Il problema è che il timore da parte di Caldoro, anzi quasi la certezza, è che coloro che volevano creare tutto questo erano persone, anche finti amici, persone del suo partito. E allora questo ovviamente è il tema anche che trovate sui giornali, cioè questa inchiesta che si sta facendo dei passi. Come? Ma ormai è un po' ridondante, Formigoni che esonda ovunque in interviste, ce l'ha con la manovra in una maniera incredibile, lo sapete, la manovra, il rapporto regioni, Italia alle regioni. Oggi l'intervista la fa a La Stampa. Sì, sono nervoso, i pendolari resteranno a piedi, è un Formigoni che ancora dice: non sono esagerato, sono nervoso, nervosissimo, mi tagliano tutto, tolgono un miliardo e 400 milioni di euro, il trasporto locale resteranno a piedi, lo Stato va a dire ai pendolari che rimarranno a piedi, non sono scaduti i tempi, si può trattare fino all'ultimo giorno, come lo hanno definito al tesoro Formigoni, l'ultimo giapponese nella foresta. Pagina 8 del Corriere della Sera. Ormai Formigoni è così definito, l'ultimo giapponese nella foresta, cioè quello che combatte anche quando la guerra è finita, non ha capito che la partita è chiusa, le regioni i tagli li devono fare. Doppia via per recuperare i crediti della pubblica amministrazione, questa è una novità molto importante per le imprese che vantano appunto dei crediti dalla pubblica amministrazione. La leggiamo a pagina 3 del Sole 24 Ore, è un po' l'apertura, che si concentra su un emendamento in discussione alla manovra. La manovra approdata in Parlamento. È Andrea Maria Candini che ne parla a pagina 3. Come detto, le imprese avranno a disposizione una doppia via per il recupero dei debiti degli enti locali. Con un emendamento approvato la scorsa settimana, la Commissione Bilancio al Senato, da un lato, apre alla compensazione delle somme iscritte a ruolo coi crediti vantati non solo nei confronti di regioni ed enti locali, ma anche del Servizio Sanitario Nazionale, e dall'altro va a regime il meccanismo che consente ai creditori di cedere pro soluto a banche o intermediari finanziari i crediti maturati nei confronti degli stessi soggetti. Dunque, due importanti novità per le imprese, che potranno dunque da una parte compensare i debiti derivanti da iscrizione a ruolo utilizzando i crediti non prescritti, liquidi ed esigibili maturati nel corso dei rapporti commerciali con amministrazioni regionali, comunali, provinciali e anche con aziende del sistema sanitario nazionale. Una misura importante perché sappiamo che i ritardi con cui il sistema produttivo incassa i pagamenti delle prestazioni fornite dalla pubblica amministrazione spesso rischiano di compromettere la stabilità delle imprese che si trovano davvero con problemi di liquidità, spesso per i ritardati pagamenti che in alcuni casi arrivano invece che a 60-90 giorni ad anni veri e propri. Dall'altra parte appunto ci sarà la possibilità per queste imprese di cedere alle banche o intermediari finanziari questi crediti maturati. Per fare questo le imprese dovranno per prima cosa farsi certificare il credito utilizzando la stessa procedura prevista per la cessione alle banche. C'è anche un'intervista a uno di coloro degli imprenditori che negli anni è diventato veramente un capofila della lotta da questo punto di vista contro i crediti maturati e non pagati, pagati con grave ritardo dalla pubblica amministrazione, vale a dire Davide Cervellin, che è anche presidente, è già presidente della commissione handicap di Confindustria, è stato protagonista di questa clamorosa battaglia per vedere riconosciuti i propri crediti, lui proprio il pioniere delle compensazioni. Con la sua Tiflo System, che ancora oggi dice su un complessivo di 3,8 milioni di euro di fatturato vanta crediti per 1,2 milioni di arretrato di oltre un anno, e capite che quindi con 1,2 milioni di arretrati di oltre un anno poi si creano problemi di liquidità. A proposito di imprese, tra l'altro prendo la prima pagina del Corriere della Sera, dove il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia scrive una lettera rispondendo all'editoriale che ieri Sergio Romano ha fatto dal titolo La debolezza e la miopia. Si chiedeva a Sergio Romano dove sono andati gli industriali e finanzieri che avevano uno sguardo nazionale e non esitavano a esprimere pubblicamente le loro idee. Ecco allora Emma Marcegaglia che prende carta e penna e scrive al direttore Ferruccio De Bortoli dopo l'editoriale sulla classe dirigente, dicendo: il titolo è Non chiediamo aiuti ma riforme vere. Fa un esempio la Marcegaglia parlando di Fiat. Mi limito a questo esempio: è preferibile la Fiat del passato, indotta dai sussidi pubblici offerti dalla politica ad aprire stabilimenti in cui la logica era bruciare cassa pur di offrire lavoro considerato socialmente utile in una logica assistenziale, oppure la Fiat di oggi che senza aiuti pubblici dice chiaro che Pomigliano non regge senza produttività comparabile a quella estera e che su questa base condivisa con i lavoratori riporta in Italia produzioni di massa già destinate alla Polonia. La risposta è libera, ma io preferisco la Fiat di oggi. E poi ecco le risposte delle imprese alla politica, scrive Emma Marcegaglia. Le imprese italiane non chiedono più interventi diretti discrezionali dei governi, ma meno svantaggi competitivi nel fisco, nella pubblica amministrazione, nell'energia, infrastrutture, trasporti. A giugno, nell'assemblea annuale, Confindustria ha consegnato al governo e al paese Italia 2015, un documento che indica come si debba intervenire per più ricerca, migliore scuola università, meno tasse per imprese e lavoratori, più flessibilità nel mercato del lavoro, meno deficit energetico e più nucleare, più integrazione tra le aziende con reti d'impresa, più forte patrimonializzazione, più legalità ovunque nel paese. Ecco, queste sono le risposte in riassunto che Emma Marcegaglia dice le imprese chiedono alla politica. E la trovate a pagina, in prima pagina, e poi segue a pagina 34 del Corriere della Sera. Oh, il sondaggio di oggi nostro è per la verità l'apertura anche di Italia Oggi. Io la cito a pagina 3, prima pagina, l'Italia del tutto proibito, tutto proibito. E a pagina 3, in vacanza nell'Italia dei divieti. Preparatevi, ci sono i divieti: vietato mangiare per strada, vietato somministrare alcolici, vietato usare i risciò a pedali a Mintumo in provincia di Latina, vietato baciarsi in auto a Deboli, Salerno, vietato fare bagni notturni e verniciare le imbarcazioni in riva al mare a Maiori in provincia di Salerno. Ma insomma, tutti questi divieti: vietato bivaccare, vietato giocare a pallone, vietato ad andare in giro su skateboard a Viareggio. Tutti questi divieti fanno bene o fanno male? Sono giusti o sono sbagliati? Ne parliamo alle 8:30, voi dovete votare su radio24.it. Io faccio solo in tempo a leggere o meglio, a citare una imperdibile intervista. Volete sapere come si fa un'intervista? Leggete le interviste di Claudio Sabelli Fioretti. Oggi, a pagina 12 e 13 della Stampa, intervista Don Luigi Verzé, il fondatore del San Raffaele, che dice: nessuno ferma la scienza, nemmeno la Chiesa, torneremo a vivere 120 anni. Poi parla di Berlusconi, è molto vicino a Berlusconi. Una bellissima intervista di Sabelli Fioretti a Don Verzé. L'ultima citazione da Repubblica, devo farla perché sentite come inizia quest'articolo a pagina 22 di Enrico Franceschini. La felicità, diceva quel gran conoscitore dell'animo umano che era Anton Chekhov, è come la salute, quando la possiedi non te ne accorgi. Ed ecco che tutti ci lamentiamo del lavoro, il matrimonio, le aspirazioni non realizzate, i tanti malumori di tutti i giorni, a cominciare da quello che ci taglia la strada, in auto, siete in auto, al barista che ci ha risposto male o sgarbatamente questa mattina. Ebbene, uno che si è accorto dell'importanza della felicità è Neil Pasricha, canadese, 30 anni, che durante una fase piuttosto buia della sua vita, il divorzio della moglie, problemi sul lavoro, cosa ha fatto? Come antidoto alla depressione ha deciso di scrivere un blog in cui registrare almeno una piccola gioia quotidiana. Lo ha chiamato Mille cose stupende ed è partito. Un giorno ha raccontato una nevicata inaspettata, oppure come ha scoperto che ci sono due sedili liberi e dunque una fila tutta per sé in un lungo viaggio aereo, come un giorno ha fatto un perfetto palloncino con il chewing gum, ha messo fine a un fastidioso singhiozzo, ha sciolto un nodo che sembrava impossibile da sciogliere, ha preso una fila di semafori verdi, ha indossato la propria vecchia maglietta preferita, ha sorriso a uno sconosciuto in autobus e ha ricevuto un sorriso in risposta. Ebbene, questo blog in cui racconta le piccolissime felicità della vita è uno dei blog più visti al mondo. 50.000 persone lo leggono in media tutti i giorni, visitato già da 17 milioni di persone. Mille attimi fuggenti di felicità, ecco il blog dei piccoli piaceri.